Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questa nostra giornata di mercoledì 6 novembre. Oggi l'incontro al Ministero dell'Industria con il Premier Conte e la dirigenza della Mittal Arcelor indiana dell'Ilva per evitare la chiusura dell'impianto tarantino e la messa in liquidazione di circa 1000 posti e più di lavoro con tanto di famiglie. Al seguito di questo chiaramente parleremo, ma subito Radio Bolt, buon ascolto. Un buongiorno da ascoltatore e ascoltatrice, ben ritrovati anche per oggi, mercoledì 6 novembre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato, come di consueto, il mercoledì e il venerdì, alle notizie dall'Africa e dall'Europa. E cominciamo dall'Africa, cominciamo dalla Mali, dove la ministra francese Florence Parly, di ritorno in Francia dopo una visita nei paesi del Sahel, ha annunciato ieri l'uccisione di un capo jihadista del gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, GSIM, che sarebbe stato ucciso all'inizio del mese proprio dalle forze francesi con il sostegno degli americani in Mali. Si tratterebbe del marocchino Ali Maichou, detto anche Abu Abdelrahmane al-Maghrebi, considerato il numero due e leader religioso di questa organizzazione, che aveva rivendicato gli attacchi che tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre avevano causato la morte di 40 militari. Ma la situazione della sicurezza nella Sahel, dopo altri attacchi mortali intervenuti la settimana scorsa con più di 50 soldati uccisi, resta davvero precaria, e lo ha riconosciuto la stessa ministra, che poi ha annunciato un sostegno europeo alle operazioni militari, sostegno che dovrebbe attuarsi a partire dal prossimo anno. L'unità europea si dovrebbe chiamare Takuba, ma il suo dispiegamento non è stato ancora né deciso né approvato. Tuttavia la ministra ne ha parlato come di una cosa ormai sicura. Abbiamo sollecitato una decina di paesi, ha spiegato, abbiamo raccolto pareri positivi, ma serve un accordo politico. Guinea Conakry, ancora un morto nelle manifestazioni dell'opposizione contro il presidente Alpha Condé. Lunedì un giovane di 17 anni è stato ucciso dalla polizia durante il corteo funebre di 11 delle vittime di queste ultime settimane di contestazione, corteo che si era trasformato in una manifestazione di protesta. Altre 6 persone sono rimaste ferite negli scontri che sono scoppiati lungo il tragitto dall'ospedale, dove le spoglie erano custodite in attesa dell'autopsia, alla moschea dove sarebbero state seppellite. Malawi, scontri lunedì nel distretto di Balaka dopo il rifiuto di una scuola anglicana di accogliere 2 studentesse che indossavano il velo. I membri della comunità musulmana, secondo la ricostruzione dei media locali, hanno quindi preso d'assalto la chiesa anglicana di Mbanga, che gestisce la scuola, e la casa del prete. A quel punto, per rappresaglia, la comunità cristiana è andata all'assalto della moschea. Alla fine è intervenuta la polizia con gas lacrimogeni per separare i gruppi. Ieri la rappresentante delle Nazioni Unite per il Malawi, Maria José Torres, ha criticato la scuola anglicana, dicendo che l'abbigliamento non può costituire un discrimine per l'istruzione. Il governo, dal canto suo, vieta già la discriminazione sulla base dell'identità religiosa. In Malawi il 68% della popolazione cristiana e le diverse religioni convivono pacificamente, come è giusto che sia. Nigeria, nuova operazione della polizia contro le istituzioni pseudo-islamiche che operano illegalmente e con metodi disumani. Stavolta si è trattato di una cosiddetta casa di rieducazione, dove sono state trovate 259 persone, uomini, donne e bambini, sostanzialmente tenuti prigionieri. Alcune persone si trovavano nel centro da anni. La polizia, in una conferenza stampa, ha detto che il proprietario e altre 8 persone sono state arrestate. Negli ultimi tempi le autorità nigeriane hanno intensificato questo tipo di operazioni, che ogni volta portano alla scoperta di centinaia di persone, soprattutto minori, tenute in condizioni di semisegregazione. I centri privati di riabilitazione, spesso informali, sono molto diffusi in Nigeria, dove la povertà è molto elevata e i servizi pubblici sono spesso assenti. Uganda, il governo ha negato l'ipotesi di una riproposizione della controversa legge sull'omosessualità che era stata annullata nel 2014. A parlare di una sua reintroduzione era stato il ministro per l'etica e l'integrità la scorsa settimana, ma ieri Esther Mbayo, portavoce della presidenza, ha detto che questa non rientra assolutamente nel programma. Zimbabwe continueranno anche oggi le proteste dei dipendenti statali, tra cui i medici, dopo il rifiuto ieri del governo di legare i loro stipendi al corso del dollaro statunitense, che era stato richiesto per evitare i danni causati dall'inflazione al proprio potere di acquisto. Nonostante la fine dell'era Mugabe, il paese continua a essere in profonda crisi economica, con un'inflazione ormai a tre cifre e la disoccupazione al 90%. Il governo però dice che non può permettersi una paga indicizzata in dollari, che vedrebbe gli stipendi più bassi arrivare a 7.293 dollari dello Zimbabwe contro i 1.023 dollari che sono adesso. E ritorniamo in Nigeria, dove un vasto incendio ha colpito ieri uno dei più grandi mercati tessili di Lagos, la capitale economica. I commercianti lamentano l'inefficienza dei pompieri che dopo 10 ore non erano ancora riusciti a domare l'incendio scoppiato verso le 7 del mattino. In alcuni video si vedono i commercianti stessi in piedi sul tetto dell'edificio, che era di circa 4 piani, che cercano di spegnere le fiamme con secchiate d'acqua. La polizia fino a stamattina non aveva ancora chiarito se nell'incendio ci fossero state vittime. Europa, la Corte di Giustizia Europea, come già preannunciato, ha condannato la riforma giudiziaria della Polonia, giudicandola contraria al diritto comunitario. In particolare sono state sanzionate 2 misure della riforma del 2017, che riguardano l'età pensionabile e l'indipendenza dei giudici. La condanna di ieri è anche un monito agli altri paesi europei, poiché i giudici nazionali sono chiamati anche a applicare le leggi comunitarie, la normativa che li riguarda è normativa di interesse europeo. Germania, passiamo un'altra corte, quella di Karlsruhe, la massima autorità tedesca, che ha pronunciato ieri una storica sentenza che farà giurisprudenza sul sistema di sanzioni previsto dalla normativa detta Hartz IV, cioè il sussidio di disoccupazione di lunga durata. Rispondendo alla domanda di un disoccupato di Erfurt in Turingia, la Corte ha dichiarato che le sanzioni devono essere proporzionate e in ogni caso non possono essere di ampiezza tale da non garantire il diritto a una vita dignitosa. Nel caso in questione veniva contestata la decurtazione del 60% dell'assegno sociale per non aver rispettato il cosiddetto obbligo di cooperazione, cioè per aver rifiutato il lavoro proposto dalla Job Center. Una prima sanzione comminata riduceva l'assegno del 30%, al secondo rifiuto la sanzione è salita al 60%. Tra le altre cose, per i disoccupati sotto i 25 anni il sistema è ancora più rigido ed è sulla percentuale del 60%, che in alcuni casi arriva anche al 100%, cioè alla sospensione totale dei benefici, che si è soffermata la Corte. Con il 60% in meno dei benefici sociali è possibile avere una vita dignitosa, tale da conservare slancio e passione e ricominciare a vivere? Questa è la domanda della Corte e la Corte ha risposto no. E dunque una sanzione così alta non è costituzionale. Francia, è stato fissato al 6 settembre 2020 un nuovo referendum sull'indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia. Il precedente referendum, fatto nel novembre 2018, esattamente un anno fa, aveva visto in Olanda l'indipendenza vincere col 56,7% dei consensi. Nel caso anche questa consultazione dovesse sancire il desiderio di restare sotto l'ala di Parigi, un ennesimo referendum sarà organizzato nel 2022. La Francia, a seguito degli accordi di Nouméa, ha disposto una progressiva decolonizzazione che però sembra non piacere ad alcuni dei suoi territori d'oltremare. E restiamo in Francia, dove oggi il primo ministro Edouard Philippe presenterà ufficialmente le sue nuove linee guida sull'immigrazione. Si tratta di una ventina di punti di cui si è discusso molto in queste 4 settimane e che secondo il governo dovrebbero rappresentare un equilibrio tra la più grande fermezza e la più grande apertura. In realtà le misure sembrano andare più verso un restringimento dei diritti, a partire da quello alle cure sanitarie che vengono accordate non più al deposito della richiesta di asilo, ma entro i 3 mesi. Quanto all'apertura, si tratta essenzialmente di rivedere la lista dei mestieri considerati deficitari e per i quali c'è bisogno di manodopera per favorire l'immigrazione legale su richiesta però dei datori di lavoro. L'insieme delle misure le potete leggere seguendo il link sul nostro sito. Un nuovo studio del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, pubblicato ieri, mostra la rappresentanza politica delle donne in 41 paesi europei. analizzando non solo i parlamenti nazionali, ma anche i consigli comunali. Quel che ne viene fuori purtroppo non è una novità, le donne sono solo un terzo dei decisori politici in Europa e appena il 15% dei sindaci. Lo studio valuta gli ultimi 10 anni e presenta anche segni positivi, ma davvero minuscoli. Le donne passano da una rappresentanza del 23,4% nei consigli comunali, percentuale del 2008, a una rappresentanza del 29% nel 2018. Qualche altro dato: la Turchia ha la percentuale minore di donne, appena il 10,7% nelle amministrazioni comunali, l'Islanda quella maggiore con il 47,2%. Quanto ai sindaci, su 41 capitali considerate, le donne che le dirigono sono soltanto 8. Tutti i dati sul nostro sito. In tema di studi e analisi segnaliamo quello uscito ieri a cura della Open Society, la fondazione di George Soros, in cui sono stati intervistati i cittadini di 7 paesi che nel 1989 sono usciti dall'orbita dell'Unione Sovietica: Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Polonia e infine Germania. A 30 anni di distanza, il 60% degli intervistati ritiene che nel proprio paese lo Stato di diritto sia minacciato. In Bulgaria 3/4 degli intervistati dichiarano che le elezioni non sono né libere né eque, percentuale che è superiore al 50% anche in Romania e Ungheria. Andiamo a chiudere con una notizia che arriva dall'Austria, da Vienna, dove la Società dei Trasporti Urbani, con dei messaggi diffusi attraverso Twitter e Facebook, ha invitato i passeggeri maschi a smetterla con la pessima abitudine di sedersi a gambe spalancate nei mezzi pubblici, occupando quindi più spazio del necessario e dando una pessima sensazione di prepotenza e arroganza. Un atteggiamento che ha un nome, manspreading, contro il quale già altre istituzioni si sono pronunciate, come per esempio la Società dei Trasporti di Madrid. E questo è tutto con il web notiziario di oggi. Vi saluto, vi do appuntamento a domani con Barbara Schiavulli. Vi lascio con il resto delle trasmissioni di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna e con il resto delle nostre rubriche online per chi ci ascolta appunto attraverso internet. Una buona giornata. testimonio. 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Oggi abbiamo un pinzimonio di rimproveri ed elogi. Le parole di oggi sono apologia, encomio, invettiva, biasimare e riprovare. Cominciamo con il termine apologia, che propriamente è il discorso in propria difesa che, secondo la procedura attica, l'accusato pronunciava personalmente. L'Apologia di Socrate è il titolo di un'opera di Platone in cui si riferisce il discorso che Socrate avrebbe pronunciato a sua difesa nel processo terminato con la sua condanna. Per estensione, quindi, l'apologia è un discorso pronunciato o scritto a difesa e spesso anche ad esaltazione di sé e della propria opera, o di un'altra persona, o di una fede o una dottrina, come l'apologia del cristianesimo, oppure come l'apologia di reato, che è la difesa o l'esaltazione di fatti o comportamenti illeciti o comunque contrari alle nostre leggi. Continuiamo con l'encomio, che nella Grecia antica era il canto celebrativo di azioni insigni, in seguito anche un elogio in prosa di un personaggio illustre. Per estensione, quindi, l'encomio è una lode, per lo più pubblica o ufficiale, fatta solennemente da una persona autorevole. Continuiamo con invettiva, che a differenza dell'encomio è un discorso polemico concitato e violento, di accusa, di oltraggio o di acerbo rimprovero contro persone o cose. Lanciare un'invettiva. Altrimenti biasimare significa formulare tacitamente o apertamente un giudizio negativo, per lo più di natura morale, su una persona o una cosa, quindi disapprovare e condannare. In questo senso biasimare è il contrario di lodare. Per esempio, non posso che biasimarti per le tue azioni, quindi per estensione significa criticare o far notare i difetti di qualcosa. Terminiamo con riprovare, che nel suo senso più comune significa appunto provare di nuovo nei suoi vari significati, come fare un nuovo tentativo, o altrimenti significa anche non approvare, ma con un senso più energico che disapprovare, quindi giudicare in modo decisamente negativo, biasimare, condannare moralmente. Tutti i presenti riprovarono il suo scatto di rabbia. E in senso antico significava anche dimostrare come falso, ossia confutare, riprovare un'opinione. Da qui l'aggettivo riprovevole. Terminato quindi questo encomio delle parole italiane, il Pinzimonio vi aspetta domani sempre alle 9:15 su Radio Città Fujiko. Ascolta il Pinzimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinzimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinzimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi produzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Nove 33 minuti di questa nostra giornata del 6 ottobre, mercoledì. Questo valzerino triste che apre come sigletta, jingle, il valzer della borghesia di Brecht. Mi ricorda il vecchio piccolo borghesia, non so se mi fa più schifo o malinconia, che cantava Lolli, quando leggo il titolo di Libero di questa mattina: ammazzano le fabbriche e i poveri pompieri muoiono. Un esempio di cinismo, strumentalità, volgarità, violenza, che francamente non trovo gli aggettivi. Sono le due notizie che oggi hanno la prima pagina della stampa, devo dire, di Torino, con ben altro tenore, perché se un altro riesce a dividere gli argomenti, una trappola mortale per i pompieri, quell'altro è Mittal, porta il governo in tribunale. Ecco, chi porta chi in tribunale poi da vedere, perché il primer conto dice che è il governo che porta Mittal in tribunale. Comunque questa è la velina che arriva dall'azienda multinazionale indiana da cui noi partiamo. Dicevo, Mittal porta il governo in tribunale, Ilva vertice a Palazzo Chigi, ipotesi di ridare all'azienda uno scudo soft per riaprire la trattativa. Il concetto dello scudo soft vedremo. Il gruppo scrive ai commissari e al tribunale per rescindere il contratto, finisce a carte bollate. E Marco Zatterin dice: ora serve il coraggio di decidere, ma dipende cosa decidere. Andiamo ai titoli che naturalmente molti di questi si concentrano sulla vicenda della Mittal Arcelor. Per esempio, ex Ilva, dice il Messaggero di Roma, doppia offerta a Conte. O ancora, il Mattino, chiudere l'Ilva costa l'1% di prodotto interno lordo, conta doppia l'offerta a Mittal. Mentre abbiamo il dubbio, Ilva, Conte contro lo scorporo, la maggioranza si spacca, contro lo scudo la maggioranza si spacca, l'Avvenire vietato chiudere, dice il Giornale Cattolico, il Secolo XIX dalla Liguria, Mittal al tribunale, l'intesa su Ilva è da annullare, vogliamo i danni. Mentre la Gazzetta del Mezzogiorno parla di Ilva ricercasi riserva indiana. Di cosa si tratta? Lo dice il sottotitolo: il governo contro ArcelorMittal, saremo inflessibili, domani intesa in Italia concorrente Jindal, anche se il governo smentisce questa carta di riserva. Oggi l'incontro decisivo a Roma, Bentivogli della CISL, la Gazzetta dice del Mezzogiorno, dice reintrodurre la tutela giuridica. Questo un po' è un tormentone, quello di rimettere la tutela giuridica che era stata tolta con l'ultimo decreto legge del governo. Il Corriere: Ilva la mossa del governo, l'ipotesi per convincere ArcelorMittal, l'immunità penale a tutte le aziende. Naturalmente va da sé che non c'è bisogno di nessuna immunità penale, perché nessuno paga per degli errori fatti da uno precedentemente, tanto più se l'azienda è cambiata. Il problema è che in questo modo, col giochetto all'italiana, si può continuare a inquinare dicendo che col pericolo precedente erano in eredità ricevute, quindi non si paga dazio. Questo un po' è il rovello di questa vicenda. L'azienda insiste, ce ne andiamo da Taranto, oggi l'incontro decisivo a Palazzo Chigi. Il Sole 24 Ore sta con la multinazionale, va da sé, perché cane non mangia cane e padrone non mangia padrone. Arcelor, recesso legittimo in base ai contratti, lasciamo l'Ilva. Quindi Alessandro Galimberti dà un'interpretazione assolutamente opposta a quella che ha dato il Premier Conte, che pure è avvocato di questo contratto. Vedremo chi ha ragione. La crisi di Taranto, il gruppo franco-indiano presenta istanza al tribunale per farsi riconoscere la legittimità della risoluzione contrattuale. E nel frattempo il governo è pronto a trattare sullo scudo bis, come chiedeva anche il Gazzettino Nord-Est, lasciarlo scudo all'azienda, e la cassa integrazione guadagni per lasciare dei lavoratori a casa e far contenta l'azienda, che vuole in qualche modo snellirsi, ma forse l'azienda non si sfama mai, perché secondo il Fatto Quotidiano Mittal confessa via anche senza scudo. È la crisi del settore industriale dell'acciaio che fa a mo' di locusta andare via le multinazionali dopo che hanno depredato il territorio. Ilva Conte si gioca il governo, ai franco-indiani l'immunità non basta e vogliono abolire i PM, perché c'è anche il problema della liberalizzare gli altoforni inquinanti, le ciminiere inquinanti. Conte in allarme, il Premier trovi subito una soluzione. E su questo inquinamento drammatico è altrettanto drammatica anche la cattiveria ironica al veleno di Spinoza dal Fatto Quotidiano. L'annunciato spegnimento dell'Ilva mette a rischio 10.000 posti di lavoro, in gran parte oncologi. E allora andiamo ad altri titoli di apertura, ad esempio quello del Manifesto, che parla di acciaio fuso. Futuro dell'ex Ilva appare segnato, lo scontro incandescente, neanche lo scudo penale trattiene più Mittal, che tira dritto verso il disimpegno e fa causa al governo per rescindere il contratto. Palazzo Chigi sotto assedio, Taranto divisa, mentre gli ambientalisti, c'è anche la loro voce, dicono che appunto l'unica strada è la riconversione. Il governo è in un labirinto, secondo il Manifesto. Domani riferirà in Senato Patuanelli e non con Conte, con la maggioranza appunto divisa su questo famoso scudo, il Manifesto poi fa varie interviste, ad esempio Rocco Palombella, segretario della UILM: un grande capolavoro al contrario, ci chiudono perché Taranto è divisa. Fra l'altro Palombella ricorda che appunto ha lavorato 30 anni nell'area Alto Forni Ghisa dell'Ilva. L'epilogo è scritto: nessuno bonificherà il territorio. E poi un'intervista invece ad Alessandro Marascotti di Peace Link, in prima fila da sempre nel denunciare l'inquinamento dell'Ilva. L'unica soluzione è la riconversione, dice Di Maio ha preso in giro i tarantini. Siamo stati noi a far conoscere ai 5 Stelle l'esempio della RUR, che messa in bocca a Beppe Grillo è diventata una caricatura. La sovrapproduzione di acciaio gigantesca, dice Peace Link, non è più un bene indispensabile, perché poi naturalmente c'è tutta una propaganda che naturalmente viene elargita ad ampie mani in queste ore. Anche dalla Repubblica usa un altro titolo immaginifico, la morsa d'acciaio, per appunto descrivere la situazione, con dei commenti affidati a Gad Lerner, che parla di fabbrica sbagliata, o di Stefano Folli, che invece la mette più sul politico, quel grillismo che schiaccia i dem. Ma tornando invece al duello d'acciaio, le mosse di Palazzo Chigi viste dalla Repubblica: il governo Conte studia uno scudo bis, possibile decreto se Arcelor ritira l'ipotesi di 5.000 esuberi. Ma naturalmente poi tra i veleni di Taranto e i veleni di 5 Stelle interni ovviamente il clima è decisamente plumbeo, e con il Resto del Carlino che apre anch'esso con Caos Silva, governo pronto a trattare, ma rispunta lo scudo penale. Oggi comunque ci sarà l'atteso incontro con gli indiani. Questa mattina Renzi, il leader di Italia Viva, che fa il birichino, no? Renzi lancia un appello a Rete 1 102.5, è una radio che è RTL, per unità delle forze politiche in sostegno al governo per salvare l'ex Ilva ArcelorMittal. Se ne vuole andare bisogna aver digli di no, ha detto Renzi, e il Premier Conte deve avere il sostegno di tutti. Scudo penale, dire che chi bonifica mette a posto abbia agevolazioni per me va bene, ma questa norma qui, il contratto del sogno del signor Mittal, non c'entra niente. Colui che ha preso un impegno con lo Stato italiano lo rispetti. Quindi sembrerebbe su questo almeno il governo per il momento, sono molto prudente, è in qualche modo compatto, anche se per esempio la sinistra è contrarissima allo sto scudo penale, scudo ambientale rinnovato. Anche Emiliano, Michele Emiliano, il governatore della Puglia, che si era fatto triste profeta al tempo, oggi rivendica questo suo essere Cassandra. Emiliano, l'Alto Forno 2 è un pretesto, il tribunale darebbe tempo. ArcelorMittal non abbandona mica per l'immunità penale, una cosa che non esiste in nessuna parte del mondo e che stava per essere esaminata dalla Corte Costituzionale, non sarebbe mai passata questa differente legislazione per differenti cittadini. Il vero motivo è la crisi generalizzata del settore che ha indotto ArcelorMittal a ritenere di avere sbagliato a stipulare il contratto. Dunque, temo che la mia ipotesi iniziale, cioè che ArcelorMittal abbia preso Ilva per acquisire clienti e quote di mercato, sia quella giusta, quindi prendi i soldi e scappa, e anche i clienti scappa. Ma bisogna andare su un'altra cordata, dice lui. Ho sempre tifato per la decarbonizzazione dell'Ilva, non per una cordata di Jindal, prometteva la decarbonizzazione come Lucia Morselli, che oggi è passato con ArcelorMittal. Quindi cambio bandiere, cambio anche casacca e idee, e in particolare cambio portafoglio. Il contropiano, naturalmente, è una voce che è fuori dal coro di tanti commentatori di questi giorni. Ilva incontra il ministero, necessario un deciso intervento pubblico nell'azienda in crisi, dicono Sergio Bellavita e Francesco Rizza dell'Unione Sindacale di Base. Quindi racconta nel suo intervento questo, i due, che abbiamo inoltre espresso netta contrarietà di USB ad un provvedimento di legge che reintroduca l'immunità penale, o peggio un inaccettabile intervento a modifica articolo 51 del codice penale, che legherebbe a tutte le imprese una sorta di immunità rispetto alle responsabilità sugli standard di sicurezza. E allora l'USB richiede un deciso intervento pubblico nell'azienda, e la crisi è la nazionalizzazione delle aziende strategiche per l'economia del paese. Insomma, tornare indietro alla grande ieri, quando l'Italia non a caso fece il boom economico. Ma purtroppo oggi ci scontriamo immediatamente contro questo, diceva ieri, neanche una tesi economica e neanche un ragionamento politico, ma mai una vera dottrina o idolatria del dollaro delle aziende, per cui bisogna aumentare i profitti e abbassare i salari, l'unica soluzione di questa mondializzazione capitalista finanziaria. E allora segnaliamo l'uscita giovedì di Marta e Simona Fana, un libro, Basta salari da fame, che affronta appunto la questione salariale in questo libro, che uscirà domani per l'appunto in libreria. Prima però ne hanno parlato i nostri microfoni, sentiamo un po' con il nostro direttore Alessandro Canella la presentazione di questo volume. Io comincerei, per presentare il vostro libro, da un inquadramento un po' storico della questione salariale. Voi lo fate nel libro e individuate diversi momenti, insomma, in cui il tema del salario è stato centrale. Parlate di dopoguerra, parlate dei primi anni 90. Ti chiedo se puoi ripercorrere, ovviamente un po' brevemente, questo excursus. Nel libro cerchiamo di dare, diciamo, un filo conduttore di carattere storico per unire la questione salariale fino ai giorni nostri. Partiamo dal dopoguerra, perché nei primi anni 50 l'Italia si avvia in quello che sarà il miracolo economico, e arriva il miracolo economico attraverso una drastica riduzione della quota salariale. Poi saranno le lotte operaie, sarà il conflitto operaio dei primi anni 60 e poi del ciclo 68-69 a recuperare, diciamo, tutto quello che era stato tolto, e quindi la quota salari sale rispetto al reddito nazionale e comincia a intaccare la quota dei profitti delle imprese. Negli anni 70, a seguito anche delle grandi crisi del 73, della prima crisi petrolifica e poi del 79, si avvia il processo di restaurazione di quelli che erano i rapporti di forza precedenti, e cioè le imprese, ma anche ovviamente la politica economica prodotta in quegli anni, produrrà inevitabilmente una riduzione consistente della quota salariale, l'aumento della disoccupazione, un indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori, fino a quello che per noi è uno spartiacque nella storia della questione salariale in Italia, cioè il biennio 92-93. Il 31 luglio del 1992, qualche mese dopo l'entrata dell'Italia nel Trattato di Maastricht, le parti sociali sociali e il governo stipulano l'accordo sul costo del lavoro, che sostanzialmente dice una cosa molto molto chiara: i salari devono restare fermi, devono bloccare la loro crescita, perché solo così si può aumentare la competitività di un paese che aveva attraversato nei mesi precedenti una crisi valutaria. Firmando questo accordo, dal 92 fino ai primi anni 2000, sostanzialmente i salari in Italia diminuiscono, la quota salariale diminuisce rispetto al reddito, aumenta la quota dei profitti. I calcoli e le analisi fatte ci dicono che questo divario tra salari e profitti è stato una forbice del 7-8%, quindi di una quota profitti a danno della quota salari. Quindi dal 92 sino agli anni 2000, ovviamente sino ai giorni nostri, diciamo, il conflitto distributivo tra salari e profitti vedrà i profitti aumentare a discapito dei salari. Quindi quell'accordo è un accordo che ha fatto storia, perché ancora oggi siamo, diciamo, dentro quella traiettoria che era stata siglata dal governo Amato e dai sindacati e dalle imprese. La ricostruzione storica ci serve sostanzialmente a dire una cosa molto semplice: la questione salariale, quindi il potere diminuito dei lavoratori in questi ultimi anni, non è un fatto naturale, è dovuto ai rapporti di forza che si producono nella società. Se negli anni 60 i salari erano cresciuti, e questo era dovuto principalmente alle lotte operaie, al conflitto sociale. Il conflitto sociale è l'unico grande motore dei livelli distributivi. Sono i conflitti, e il conflitto in questo caso capitale lavoro, che produce l'andamento dei salari, che determina l'andamento dei salari. Non è una legge naturale, non è una legge ferrea dell'economia, quella per cui i salari devono rimanere bassi per aumentare la competitività. Voi nel libro individuate anche diversi strumenti, diciamo, invece per ribaltare un po' la situazione. Ovviamente quello principale è la mobilitazione, la coscienza di classe, verrebbe da dire, usando un'espressione non molto più in voga, ma un primo strumento utile sarebbe il salario minimo, di cui tra l'altro si era iniziato a parlare qualche mese fa. Perché è uno strumento utile? Il salario minimo, inteso come salario minimo legale, cioè istituito per legge, poi a seconda, no, se sono commissioni fatte da politici, sindacati, istituzioni e così via, è uno strumento innanzitutto che dice stop al ribasso salariale e dice, in qualche modo, mette un paletto a quella che è la possibilità di svalutare i salari in modo universale, e questo lo si vede così come è fatto in altri paesi, e soprattutto appunto vieta e mette il bastone tra le ruote a quelli che sono poi i meccanismi produttivi che creano questa forma di svalutazione. Ad esempio, se c'è un salario minimo di almeno 10 euro lordi l'ora, ipotetico, no? Non stiamo facendo una proposta, ma ipotetico, non è più possibile fare degli appalti a ribasso e esternalizzare proprio per abbattere il costo del lavoro e quindi pagare 5 o 6 euro. Non è possibile, lì dove la forza contrattuale dei sindacati è quella per cui il contratto nazionale, anche più rappresentativo, paga solo 6 euro e poco più lordi, questo per esempio è il caso dei vigilantes, la politica si fa autonoma e spinge in avanti la storia e quindi dice: noi, voi non ce la fate. La politica aiuta in questo caso a unificare quei pezzi, se vogliamo, di mercato del lavoro, di lavoratori che rimangono ancora ai margini e sono sempre più sfruttati, ma è anche una politica che dice, senza dover fare leggi, leggine e rivedere mille forme legali, basta il lavoro gratuito. E quindi di conseguenza è una politica che, ovviamente, se fatta bene, è soltanto uno degli strumenti da mettere in campo, che rimette insieme e riunifica proprio quella parte a cui dovremmo dare non soltanto una coscienza ma anche degli strumenti di lotta comuni, perché altrimenti continueremo in qualche modo a frammentare chi oggi si può permettere, grazie alla forza che ha, di avere un contratto di 15-16 euro lordi l'ora, e chi invece manterremo a lavorare a fianco a queste persone altri lavoratori e lavoratrici con 5 euro lordi. Tra l'altro, questa è una cosa importante da dire, è che queste forme di salario minimo, quello che si vede nella storia, messo ci sono appunto i casi recenti di Regno Unito, di Germania, di Francia, Nuova Zelanda, insomma, più ne ha più ne metta, aiuta anche i contratti più elevati ad aumentare sempre di più, proprio perché c'è una forza propulsiva di maggioranza sociale. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Sì, dicevamo che questa religione idolatra, che per cui i profitti e le aziende non si toccano, e guai a metterci, non dico lacci e lacciuoli, ma anche un minimo di controlli. Questa cosa torna fuori anche con Marco Bonometti, 65 anni, presiede la Confindustria della Lombardia, che dice, in intervista a Il Corriere, raccolta da Sergio Bocconi, dice il Bonometti: dall'esecutivo danni incalcolabili, nessuno verrà più a investire da noi. Perché questo succede, questa cosa così drammatica? Per la microtassa sulla plastic tax. Pensate voi, allora, a che punto siamo arrivati. Il piano per dimezzare la plastic tax, purtroppo il governo invece di difendere a viso aperto questa iniziativa, tra l'altro al sapore dell'ecologia, fa dei mezzi passi indietro, apre il varco alla destra più destra che non si può. Si lavora a rinvio anche sulle auto aziendali. Gentiloni, l'Italia serve ancora una disciplina di bilancio. Queste sono, quindi c'è il bilancio, ma appena si trovano dei soldi da far pagare le aziende, anche pochi, si alza tutto. E sì che sulla microplastica c'è da dire molte cose. Per cui la stampa la mette a pagina 14 affinché sia molto lontana dalla notizia sulla plastic tax, perché la mano destra non sa mai cosa fa la mano sinistra. Leggiamo: la microplastica ha contaminato anche gli animali dei fondali marini. Qualcuno sarà fatto illudere dall'idea che di solito la plastica galleggia e invece finisce anche molto in profondità, persino nella zona più buia del mare, quella difficilmente raggiungibile, dove persino alcune specie di pesci non hanno la capacità di adattarsi, dice la stampa. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. E torniamo, riemergiamo dalle profondità del mare, ma restiamo sul tema, perché ad esempio Repubblica oggi riserva un certo spazio, insomma uno spazio non di poco conto, su questo tema della plastic tax più bassa per chi ricicla. E c'è un'intervista al ministro dell'istruzione Fioramonti dei 5 Stelle che dice: le industrie plastiche, se non cambiano modo di produrre, tra 2 anni chiuderanno. L'obesità è un male, un costo per il paese. Mettere piccole tasse di scopo che invogliano le aziende a migliorarsi e spingano le famiglie a rivedere abitudini sbagliate sono un piccolo prezzo da pagare oggi per avere minori costi in salute domani. E allora ovviamente qui c'era, si abbinava appunto la plastica con il tema merendine, che era quello legato all'obesità. Anche però dal Carlino c'è una levata di scudi non di poco conto, perché leggo: i giacobini ambientalisti affossano l'Italia, niente proprio di meno che. È un'intervista, anche in questo caso abbiamo al presidente di Federlegno, Emanuele Orsini, uno dei settori più forti del Made in Italy, che dice: le tasse sulla plastica sono economicamente sbagliate, ci riportano indietro di un secolo. In Emilia Romagna, ricorda quasi con tono minaccioso, il settore della plastica impiega oltre 16.000 addetti. Questo argomento è stato ampiamente messo sul tavolo in questi giorni. E mentre Carlino ci dice che potrebbe esserci un rinvio per quanto riguarda il tema plastica, che appunto vedremo se sarà questa la strada. Devo dire che le interviste si sprecano, anche il giornale ha la sua, ognuno mette la sua bandierina. In questo caso è Alberto Bertone, presidente dell'Acqua Sant'Anna, indignato dalla plastic tax. Qui i toni sono sempre più alti. La plastic tax fa scappare le imprese, ora fermeremo tutti gli investimenti. E vediamo qual è la soluzione che viene riproposta, che ci riporta Alfredo. Parlava dell'Italia del boom, qui siamo anche prima. Per essere veramente ecologisti bisognerebbe reintrodurre il sistema delle cauzioni sulle bottiglie, e credo che si potrebbe fare qualcosa anche per i tappi, forse. Naturalmente sulle 24 ore è indignatissimo anche lui, perché guai mai mettere anche solo una virgola di controlli sulle aziende. Bloccate la filiera della plastica, anche la green economy frena, quindi per mandare avanti green economy, avanti con la plastica. E poi si ricorda che Lombardia, Veneto ed Emilia, le regioni più colpite dalla tassa, no, sono le regioni dove sono gli imprenditori più colpiti da questa tassa. Io non mi sento praticamente colpito dalla tassa sulla plastica, anche se abito in Emilia Romagna. Detto questo, andiamo invece a vicende che si avvicinano alla cronaca. Caso Balotelli. La procura indaga sul capo ultra di Forza Nuova. Ancora, e non è praticamente né un segreto né una novità, che le molte curve d'ultras degli stadi sono laboratorio per il fascismo e per le bande fasciste. Caso Balotelli, la procura indaga sul capo ultra di Forza Nuova, dice La Stampa con Alberto Mattioli. Verona, curva chiusa per un turno, e questa è la severità della gente. Hanno chiuso non lo stadio, ma porti chiuse, hanno chiuso un settore. Ma questo è sufficiente perché molti esponenti della Lega di Forza Italia in consiglio comunale a Verona dicono che c'è una campagna contro Verona. Noi naturalmente non vogliamo assolutamente fare una faccia, una razza, c'è tanti veronesi, brava gente che va assolutamente rispettata. Ci sono anche dei veronesi, come si dice in gergo, facce di merda, sono i nazisti. Due fascicoli aperti per istigazione alla discriminazione razziale e per i ricorri contro l'attaccante del Brescia, mentre Maurizio Sarri dice chi si macchia di razzismo va arrestato. E a proposito, veniamo all'Inter a Bologna, quei cori che ridono il 2 agosto. L'abbiamo sentito anche da a suo tempo da tifosi barisini allo Palazzo dello Sport. Cori sulla strage alla stazione di Piovuti dalla curva, li ha intonati sabato al Dall'Ara durante la partita contro il Bologna un gruppetto di interisti ripetendoli per 3 volte, secondo chi era allo stadio, e ha denunciato il fatto. Immediata la reazione dei familiari delle vittime del 2 agosto con il presidente dell'associazione bolognesi, che ha chiesto alla società Inter di scusarsi, l'ira del PD, che presenterà un'interrogazione parlamentare. Sì, vicenda che ritroviamo ovviamente anticipando anche poi i temi della cronaca locale, li ritroviamo appunto anche sulle pagine della Fogliazione di Bologna. Insulti della Repubblica, insulti al 2 agosto, curva interista recidiva, sabato il coro, siamo venuti in pullman perché la stazione non c'è, macabro ritornello sentito già l'anno scorso e anche quello precedente, quindi è un refrain quasi che ritorna. E c'è un'intervista alla storica Cinzia Venturoli che commenta: qui siamo di fronte alla perdita dell'umanità, siamo oltre la politica, non so se si strizza l'occhio al fascismo, ma a prescindere mi chiedo come si fa a prendere in giro i morti. Lo trovo devastante, non riesco a trovare quali strumenti si possono usare per fermare questa barbarie, appunto, dice la docente di storia della società contemporanea dell'Alma Mater. A proposito, visto che siamo in qualche modo sprofondati nella cronaca, abbiamo anche il manifesto che parla di stadio dell'odio, caso Balotelli, aperta inchiesta appunto in comune, già diceva Alfredo, la mozione in difesa della città offesa ingiustamente. Aggiungo però come postilla che a Milano oltre 500 studenti hanno partecipato ieri a un incontro sui temi della memoria e dei diritti con la senatrice a vita Liliana Segre. Nella notte tra lunedì e martedì Forza Nuova aveva fisso uno striscione davanti al teatro dove si era tenuto l'evento. Il presidente dell'AMPI di Milano parla di provocazione vergognosa e neofascista. In serata poi il Consiglio regionale lombardo ha respinto la proposta di istituire una commissione consigliare speciale sul modello di quella approvata in Senato su proposta della stessa Segre. Sì, c'è Salvini che, sentendosi a cavallo nei sondaggi, ora cerca una sua rispettabilità. Allora vuol fare il concordato i patti lateranensi parlando con il cardinal Ruini, che è la destra del clero, è il nemico acerrimo giurato di Papa Bergoglio e il suo riformismo, e poi dice sono pronto a incontrare la Segre per dire sono mica razzista, ma Io ho un amico negro, si dice, anche un amico semita. Comunque è a Milano, la cronaca del Corriere già ripete quello che ricordava il manifesto: bocciata la commissione Segre, alto là in regione la mozione del PD, ma passa la proposta 5 Stelle di invitarla in consiglio. Beh, un invito non si nega a nessuno. Spunta lo striscione di Forza Nuova davanti al teatro, il corpo di studentrici, gli studenti intonano bella ciao. Ma c'è qualcuno che sente l'odore dell'affare, è Bruno Vespa. Bruno Vespa, che come sappiamo imperverso col suo librone Strena Natalizia, allora quest'anno come si chiama? L'Italia nasce del diventa fascista, quindi vediamo che questo discorso storico di Vespa ha un occhio al presente, sapendo incontrare molti consensi e comunque di far discutere, perciò si venderà. Dunque Mussolini, Matteotti, Dumini, cronaca di una morte impunita, dice Bruno Vespa, che è dal Sole 24 Ore. Il deputato socialista era già stato vittima della violenza squadrista. Allora, parlando della commissione di Milanese che non si vuole, la commissione Segre spinta in regione, parlando del fascismo di ritorno, allora è il caso di ricordare anche gli Stormy Six, che ci parlano di un partigiano eroe, Dante di Nanni, proprio a Milano. Traffico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla Garibaldina. Il carico che piega le sue gambe l'ingiustizia, la vita è dura per Dante di Nanni. All'alba prende il treno e c'è odore di porcine sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie, la sera studierà Dante di Nanni. Passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi in cento ad ammazzarlo, e cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni. Sanguinava forte e sorrideva, su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza, ma non su quella di Dante di Nanni. Trent'anni son passati da quel giorno fascisti ci si son messi in cento ad ammazzarlo, e ancora non si sentono tranquilli perché sanno che gira per la città Per i feticisti poi segnalo che un'anteprima del libro di Vespa oggi la trovate a pagina 9 del Resto del Carlino, con appunto perché l'Italia diventò fascista e perché il fascismo non può tornare, con parole vergate a mano dallo stesso Vespa. Di fianco però abbiamo invece Mattarella che ricorda Zaccagnini, ieri a Ravenna per i 30 anni dalla morte dell'ex segretario della DC, l'onesto Zac, che il capo dello Stato ha voluto onorare parlando di politica umana, come ci ricorda anche Repubblica. Ma nelle pieghe appunto della politica, della pagina politica, abbiamo il giornale che mette la propria lente sul premier Conte. Il premier si autoassolve sulla consulenza Fiber, Conte in aula non chiarisce i punti oscuri sul conflitto di interessi. In realtà Conte ha fatto anche un'altra cosa, cioè ha rimandato la palla verso Salvini, come ci ricorda peraltro appunto oggi Repubblica, e con appunto Conte che si difende in qualche modo tirando in ballo proprio il fatto che era Salvini alla guida appunto dell'udienza in cui lui aveva chiarito un po' le cose. Ci sono poi dei ritorni, ad esempio oggi Repubblica nelle pagine economiche ci segnala che sta per tornare Franco Bassanini, un altro possibile ritorno alla Cassa Depositi e Prestiti, quello in CDA dell'ex presidente Bassanini, ex ministro della funzione pubblica e via dicendo. Solo pochi giorni fa il Consiglio di Amministrazione ha indicato come nuovo presidente della Cassa Depositi e Prestiti, che insomma non è secondaria nel nostro paese, l'ex banchiere di JP Morgan e Intesa Giovanni Gorno Tempini. Se non sono due o tre cognomi è chiaro che non si può ambire. E nella stessa seduta potrebbe esserci anche la cooptazione in CDA di Bassanini in sostituzione del dimissionario Valentino Granti, indicato dalla Lega ma dalla scorsa estate al Parlamento Europeo. Anche per Bassanini si tratta di un ritorno, quindi a volte ritornano anche in questo caso. E sempre i politici però finiscono sotto il tiro della segretaria della CISL Furlan. Leggo dal Carlino: la leader CISL accusa la classe politica italiana, sono ostili al lavoro. Peccato che Silvio Tambroni siano già morti, perché un posto al CIPE non può toglierlo nessuno. Comunque, campagna, dice la Stampa, con Amedeo la mattina da Napoli. Campagna, Salvini ci crede, apre il nome della Carfagna. Si voterà in primavera il segretario, mandiamo De Luca ai giardinetti. Mentre sul versante del PD Zingaretti comincia a avere le tasche piene, basta con chi vuole metterci in difficoltà. L'altro lato di Zingaretti, leader Matteo, contro di noi azioni di basso livello. Poi c'è la pagina del Corriere che sto leggendo, che ci dà questa notizia di cronaca e di funzionari. Dunque, il caso Ansaldi e Nobili, passati con Renzi ma dipendenti del PD, e Zanda li licenzia. Ci manca solo che tengano le spie in casa, ma questo è quanto leggiamo dal Corriere. Invece passiamo alla cronaca, con il disastro che viene raccontato anche dalla prima del Corriere. Esplode la cascina, nella trappola uccisi tre pompieri, un fatto che ha commosso il paese evidentemente, perché tra l'altro l'arma dei pompieri è molto amata dalla popolazione. Massimiliano Nerozzi dal Corriere della Sera: trappola esplosiva nella cascina dei Quargneto, in cui hanno perso la vita tre vigili del fuoco di Alessandria. Intervenuti alla prima esplosione Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Trichet, 38, Antonino Candido, 32 anni, sono stati uccisi dal secondo scoppio. Il PM parla di atto deliberato, si è trovata una bombola di gas con un timer sotto, che era pronto a esplodere. Sullo sfondo dissidi familiari, ascoltato il proprietario per ore. Questa è una morte quindi tanto assurda, se viene confermata questa ipotesi, che dietro ci sia una vicenda o di assicurazione o di litigio tra padre e figlio, come sembra essere appunto l'ipotesi più probabile. Correte, stiamo morendo, dice la Sansa dal Fatto Quotidiano. La strage di Vigile del Fuoco nell'Alessandrino, una cascina esplode, tra l'altro una cascina di estremo lusso. È un atto doloso, le indagini puntano su beghe familiari diventate trappole per i pompieri. L'innesco, bombole collegate a un timer, come in un classico attentato terroristico. Ma subito si è scartato l'ipotesi terroristica per venire alla ipotesi più probabile e tremenda, forse ancora, di questo giocare con le bombe per motivi familiari, tra virgolette, almeno questa è l'ipotesi più accreditata. E il ferito, Luca Trombetta Graziano, altro pompiere, tremenda la vicenda, ho visto i miei amici lì sotto. Sì, naturalmente vicenda che trova la prima pagina del Carlino, con la foto di uno dei vigili del fuoco deceduti mentre saluta la moglie, l'ultimo bacio, con insomma anche questo tono un po' da feuilleton, ma appunto poi la descrizione della cronaca, bomba in una cascina, strage di pompieri, con l'ultima telefonata del carabiniere ferito tra le macerie, stiamo morendo tutti, appunto cronaca davvero raccapricciante, e dalle pagine della Repubblica, il timer, l'esplosione, i tre vigili del fuoco morti per una vendetta, i troppi pompieri caduti, con lo sfogo dei colleghi che lamentano negli ultimi anni una lunghissima scia di incidenti, ma da vivi dicono siamo ignorati. Questo appunto è il clima che si respira appunto nella cronaca della Repubblica, significativamente denominata con il titolo In trappola. E allora veniamo alla pagina internazionale, che vede il nostro ministro degli esteri Di Maio in Cina. Di Maio, la via della seta, faremo i conti nel 2020, siglato l'accordo su Trieste, immancabile aspetto calcistico che non manca mai, ma nella politica, per cui si regala a Xi Jinping, leader cinese, la maglia numero 10 nazionale italiana. Immagino che ne terrà conto Xi Jinping di questa maglietta. Comunque i porti, ancora più seria, dal Pireo alla Liguria, racconta il Corriere nell'analisi con Antonella Baccaro, così il dragone è sbarcato nei porti, e perciò la famosa via della seta che tanto fa infuriare Trump, il quale Trump peraltro proprio ieri ha messo in opera la disdetta dell'accordo di Parigi sui COP22, cioè sul clima. Ma proprio a Pechino Francesco Sforza ci racconta dalla Stampa: clima e commercio, il patto Macron-Xi permette in ombra l'Italia, quindi la visita di Di Maio messa in ombra da questo accordo tra la Francia e la Cina e l'Europa in particolare, di continuare con l'accordo di Parigi. Di Maio, Shanghai per rafforzare il protocollo della via della sete, ma Francia è la protagonista, abbiamo bisogno che la Cina si apra, questo è quanto. Ma sull'ambiente, oggi le foto che ci arrivano non sono di ghiacciai che si ritirano sul Monte Bianco e nemmeno l'Antarde che scioglie i ghiacciai, no, questa volta andiamo in Africa, Zimbabwe, temperatura 51 gradi, le cascate Vittoria secco, ci sono due foto, prima come erano nella cartolina e come sono adesso, non c'è più un filo d'acqua. Il patrimonio UNESCO prosciugato dalla più grave ondata di siccità degli ultimi 40 anni, enorme il danno economico ed ambientale, 7 milioni di persone rischiano di morire di fame. E allora andiamo alla pagina internazionale, e con il Mediterraneo osservato dal manifesto. Il memorandum non serve, lavoriamo per ricostruire la Libia. È una intervista a Mario Giro, ex vice ministro degli esteri del governo Gentiloni. Basta con l'ossessione migratoria, non possiamo trattare con i trafficanti, l'Italia torni piuttosto a fare politica estera. L'ex viceministro che appunto denunciò le violenze compiute nei centri libici, dando ovviamente anche per il suo ruolo istituzionale ancora più forza e più vigore a questa denuncia. Peraltro segnalo che ieri c'è stata una protesta davanti alla sede del PD di Via del Nazareno. Modificare le leggi Salvini non basta, vanno cancellate. Sabato ci sarà un corteo nazionale a Roma. E ovviamente le vicende dell'immigrazione appunto del Mediterraneo ci portano in mare aperto, e ci portano anche ad altre vicende, come quella che oggi viene raccontata da vari giornali. Prendo ad esempio la Repubblica e andiamo Nel continente americano i narcos sparano sui mormoni americani, strage di bambini. 9 mormoni americani, tra cui 4 bambini, sono stati uccisi in Messico in un'imboscata, alcuni bruciati vivi. La polizia locale ritiene che la strage sia opera dei cartelli della droga. Questa appunto strage, donne e bimbi arsi vivi, orrore narcos, dice il Carlino, con la cronaca che va ben oltre anche le rappresentazioni cinematografiche o di serie televisive, trova appunto questa risposta da parte dell'amministrazione di Trump in persona, che come reagisce, dice: vi aiutiamo noi, dice Trump al Messico, vi aiutiamo noi a trovare i colpevoli. Quindi con una una risposta che non è esattamente una novità nei rapporti fra Stati Uniti e Messico degli ultimi anni. Già arrestate comunque 3 persone, potrebbero far parte di una gang. La polizia pensa che le 3 famiglie siano state uccise per errore. Assalto alle famiglie di mormoni, narcos massacrano donne e bambini, storia terrificante. Arriva una telefonata con la voce rotta dal pianto: la polizia stanno bruciando la mia famiglia, poi si usa anche lui. Ma davanti a questo i giornali bevono la compiacente versione della polizia, uno scambio di persone, e si concentrano sui mormoni, che fa folklore, la poligamia, la colonia, i precedenti omicidi e il dramma di Le Baron. Beh, devo dire che è difficile pensare a uno scambio di persone, visto che questa famiglia è già stata oggetto di vendette dei narcos. Allora il governo scambio di persona, Trump manda l'esercito, risponde il presidente messicano: accettiamo la collaborazione con l'FBI solo se mantenga la nostra indipendenza, nessuna invasione, come se stesse al tempo sempre con la legida lotta al narcotraffico dell'invasione dei Marines in Bolivia. Ma in realtà questa strage terrificante, che davvero ci ricorda il potere del cane di Winslow, mormoni, la strage per l'acqua, dice Orsetta Bellani dal Fatto Quotidiano. Di cosa si tratta? La famiglia Le Baron aveva una disputa con i narcos per l'utilizzo di un pozzo, ma era senza protezione. E soprattutto uno di loro, Juan Le Baron, è un attivista politico morto in Messico, noto in Messico, soprattutto nel 2011, quando si unì al Movimento per la Pace, Giustizia e Dignità, sostenuto dal poeta Xavier Civil Sicilia. Il movimento radunò migliaia di cittadini, in particolare vittime dirette da violenza, perché denunciavano come la guerra al narcotraffico lanciata dal 2006 dall'ex presidente Felipe Calderón fosse in realtà una guerra contro i civili. Da allora in Messico sono registrati più di 100.000 morti, 40.000 desaparecidos, una media di 10 femminicidi al giorno e l'impunità per il 99% degli assassini. Ecco, quindi scambio di persona proprio non credo. Questo è quello che racconta il Fatto Quotidiano. Sì, in effetti poi alcuni giornali insomma vanno un po' ad approfondire. Ad esempio anche Il Giornale, devo dire, ricorda che la famiglia Le Baron si era trasferita nel Chihuahua e aveva preso delle posizioni molto, molto forti appunto contro il crimine organizzato dei narcos. Ci spostiamo più in basso, andiamo in Cile con Il Manifesto. Mentre a Santiago gli edifici oscillavano per una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 nella zona costiera centrale del Cile, per le strade appunto del paese andino un altro terremoto politico, quello del super lunedì di mobilitazione, che ha radunato in mezzo a una dura repressione decine di migliaia di persone in Plaza Italia, oltre a una manifestazione dinanzi al congresso a Valparaiso, e quindi un rifiuto ennesimo dell'agenda sociale del governo e del presidente Piñera, il cui livello di approvazione è sempre più in basso e sta precipitando. Ancora dalla pagina esteri del Manifesto, invece, per andare in Medio Oriente, ci vediamo come appunto vengono come si può manifestare liberamente il proprio pensiero. Abbiamo Omar Shakir, cittadino americano, direttore di Human Rights Watch in Israele, nei territori palestinesi occupati, che secondo la Corte Suprema israeliana va cacciato. Israele espelle il direttore appunto di Human Rights Watch che aveva criticato le colonie illegali. Quindi vediamo qual è appunto come la risposta a questo calvario appunto giuridico di Omar Shakir. Nel frattempo, a condire questa notizia, arriva la conferma di una confisca di altri 252 ettari di terre palestinesi da parte degli israeliani. Domenica si vota in Spagna e allora Alessia Garossi, questo terzo voto per una maggioranza che non c'è nella penisola iberica, racconta: adios Podemos, elezioni Sanchez, partito socialista, sterza al centro. Domenica le urne, il voto per la quarta volta in quattro anni, il premier socialista cerca di sottrarre voti a Ciudadanos, quindi una svolta renziana di Sanchez del PSOE. Ma la politica spagnola altrimenti attraversata anche dalla questione della Catalogna, che come si temono, tra l'altro la polizia teme l'occupazione dei seggi elettorali da parte dei dipendentisti della Catalogna. Ma oggi invece Aldo Cazzullo dal Corriere ci parla dello tsunami degli anarchici che blocca Barcellona. Tra le tende la regola è niente sesso né alcol, quindi l'immagine di sesso, droga, alcol degli anarchici qui non attecchisce. Disciplina, ti dicono loro, non siamo ideologici, ma lo spagnolo per noi è uno straniero, raccontano. Ci sono in azione agenti provocatori, beh, è inevitabile in qualche modo in queste situazioni. Vogliono far credere che all'Europa che siamo violenti, e noi vogliamo mostrare il volto della repressione in in Catalogna di Madrid. Questa è l'ultima notizia della pagina internazionale, che ci porta poi alla pagina locale, che segnalo con questo, abbiamo già parlato della plastic tax in chiave locale, abbiamo parlato anche dei cori nazisti dallo stadio il 2 agosto. Vediamo se abbiamo altre notizie da segnalare su questo versante. Per esempio trovo maltrattamenti sugli anziani, Corriere di Bologna, condannato a 8 anni, il titolare di Il Fiore. Stangato su Vanes Dani, il titolare della casa famiglia Il Fiore di San Lazzaro, chiuso un anno e mezzo fa per maltrattamenti sugli anziani. Ieri viene condannato a 8 anni di reclusione per lesioni aggravate sugli ospiti abusati, vessati e storditi con potente dosi di farmaci. Sì, anche Repubblica va nella casa per anziani di San Lazzaro, 8 anni al titolare della casa degli orrori. Dei suoi pazienti nelle intercettazioni diceva: se campa campa, se muore arrivederci, un rompi in meno. E poi Repubblica dà un'occhiata anche allo Sterlino, la palestra abbandonata da più di 4 anni, chiusa per inagibilità dopo una spesa di 35.000 euro e pronta dal 2015, in settembre bando per la gestione deserto e poi più nulla, e quindi tutto fermo. Ha riaperto ieri invece il lab di via Mattei, quello che Matteo Salvini voleva smantellare definendolo una stalla. Chiuso da giugno per lavori di ristrutturazione, lo gestirà il consorzio Arcolaio e diventerà un centro di accoglienza per maschi adulti con capienza di 200 persone. Ieri sono arrivati i primi 6 ospiti, i migranti saranno trasferiti gradualmente dagli altri centri della provincia di Bologna chiusi perché applicavano i capitolati dell'era pre-Salvini, mentre il prefetto Patrizia Impresa dice: non c'è nessuna emergenza. Chiudo col Corriere della Sera che oggi apre con il piano di Merola per le famiglie. La manovra, il sindaco dice, i provvedimenti sono per tutti, non solo per chi è nato qui come vorrebbe qualcuno. Il qualcuno è chiaramente la Borgonzoni, lo schieramento di centrodestra, che c'è prima gli italiani, prima gli emiliani, dopo i romagnoli, prima i bolognesi, prima quelli di San Donato, poi quelli dopo, prima del ponte, quelli dopo il ponte, e via dice, sempre un prima di qualcuno. Comunque il comune stanzia 5 milioni di euro per sconti su rette dei nidi, di refezioni e tasse dei rifiuti. Ieri la conferenza stampa, la nostra Alessia Mondelli ha raccolto le parole del sindaco Virginio Merola su queste famiglie. Noi con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani sempre a stessa ora. Ciao a tutti, risentirci. Abbiamo messo in bilancio ulteriori 3 milioni per ridurre le tariffe dei nidi, non solo fino a 26.000 euro, ma per arrivare a 35.000 euro di ISEE. Proponiamo alle famiglie della nostra città una forte riduzione per quanto riguarda i nidi, con le risorse della regione fino a 26.000 di ISEE, come sapete. Abbiamo aggiunto 500.000 euro per dare una riduzione consistente da 500 a 800 euro annue alle famiglie che vanno da 26.000 a 35.000 di ISEE. Questo è possibile, lo proponiamo al Consiglio Comunale e appena sarà approvato la misura entrerà in attuazione. Significa che avranno una forte riduzione, più di 3.000 famiglie sulle 4.000, che semplicemente quelle che hanno un ISEE molto alto o che non presentano l'ISEE. Quindi il 75% delle nostre famiglie avrà questa forte riduzione, che entro i 26.000 di ISEE potrà arrivare anche a 1.000 euro all'anno, sopra i 26.000 di ISEE oscillerà tra i 500 e gli 800 euro all'anno. A questo aggiungiamo una manovra sulla TARI, la tassa dei rifiuti, perché ci sono famiglie che hanno figli, come sapete, e quindi investiamo 2 milioni e mezzo dei tre che vi ho detto per ridurre le tariffe TARI alle famiglie che hanno un figlio, due figli o più di tre figli. Quindi chi ha un figlio avrà una riduzione del 10%, chi ha due figli avrà una riduzione del 20%, chi ha da tre figli in su avrà una riduzione del 30%. E bisogna che noi ci prendiamo cura delle nostre famiglie, perché sono la nostra forza, garantiscono che questa città ha un futuro. Come sapete, la città unica e controcorrente sta aumentando le nascite, quindi stiamo facendo una politica giusta di sostegno alle nostre famiglie in una realtà dove il 70% e oltre dei tassi di occupazione riguardano anche le donne, unici in Italia anche in questo caso. Quindi questa misura è insieme alle famiglie che vogliamo irrobustire con queste forti riduzioni. A questo ci sarà una riduzione delle tariffe delle refezione scolastica, perché come sapete abbiamo avuto un premio dal Ministero, quindi possiamo utilizzare 2 milioni e mezzo per ridurre, grazie a questo finanziamento del Ministero, per 28 giorni le tariffe di riduzione della refezione scolastica, che significa su 10 mesi di refezione scolastica un mese e mezzo gratuito. Queste misure insieme servono a irrobustire il fatto che questa città ha bisogno di futuro, ce l'ha, e bisogna investire sulle famiglie. Quindi tre misure che vengono incontro premiano chi fa figli. Ne tengono conto, noi non possiamo obbligare la gente a fare figli, ci mancherebbe anche questa, però siamo in una città attrattiva che ha un futuro e che va bene, perché le nascite testimoniano che c'è fiducia nel futuro. Siamo completamente contro tendenza, ci auguriamo che ci segua il resto d'Italia, ma adesso facciamo insieme alle famiglie e quindi diamo tutti questi forti riduzioni perché la vita dei figli non sia ridotta a un costo, ma sia una bella vita.